Sì, in realtà diciamo la parte di emergenza transizione abitativa sarà davvero la prima fase di vita dell'immobile. Quell'immobile che appunto è proprietà di Acer sarà oggetto di una convenzione fra Acer e il Comune di Bologna. Grazie a questo lavoro di sistema il Comune di Bologna avrà in uso l'immobile per 30 anni. Abbiamo appunto una convenzione che ci dà questa durata per progetti di abitare collaborativo e solidale. Nella primissima fase però, prima dell'uscita di un avviso pubblico per appunto questo progetto di abitare collaborativo trentennale, da fare all'interno dell'immobile sarà un hub di transizione abitativa e quindi ospiterà sia alcuni dei nuclei che attualmente sono lì perché appunto bisognosi, già valutati dai nostri servizi sociali come bisognosi di una risposta da parte del Comune di Bologna nel caso in cui ci fosse stato uno sgombero dell'immobile, sia altri nuclei che hanno bisogno diciamo di progetti di transizione abitativa di rispondere alle loro condizioni di emergenza abitativa. Quindi appunto una primissima fase dell'immobile vedrà la sua destinazione a progetto a un hub di transizione abitativa in cui appunto saranno presenti questi nuclei e gli altri che si potrebbero aggiungere a questa situazione fino al momento di un'uscita, di un'aggiudicazione, di un avviso pubblico per la realizzazione invece di abitare collaborativo per 30 anni all'interno dell'immobile, che risponde invece chiaramente ai bisogni diciamo della cosiddetta fascia grigia, quindi quella larga fetta della nostra popolazione in realtà che oggi non accede a una casa popolare ma neanche riesce a pagare gli attuali prezzi di mercato. La spesa prevista fino ad ora almeno per quanto riguarda la messa in sicurezza degli stabili? Ma siamo nell'ordine di qualche centinaia di migliaia di euro, perché davvero stiamo facendo lavori previsionali minimi, perché dentro potessero stare delle famiglie. È stata fatta la valutazione di sicurezza dell'immobile, che ha bisogno di lavori strutturali, consolidamento del tetto, delle scale, ma nulla diciamo che pregiudicasse la possibilità di tenere in questo momento delle famiglie al suo interno. Nei prossimi mesi e nelle prossime settimane in realtà facciamo solo qualche lavoro sugli infissi e sugli allacci delle utenze. Prossimamente ci sarà una scrittura privata con Acer? Esattamente, nei prossimi 15 giorni ci sarà una scrittura privata fra Acer e il Comune, che recepisce peraltro atti di indirizzo degli scorsi mesi, ma anche una delibera di giunta del nostro Comune e una delibera del CDA di Acer. Abbiamo lavorato in sistema per destinare appunto l'immobile al Comune in uso per fare abitare collaborativo per 30 anni. Nei prossimi mesi, nei prossimi 120 giorni, sarà scritta la convenzione fra Acer e il Comune, che dispone appunto l'uso di questo immobile per progetti di abitare collaborativo, ma fino all'aggiudicazione dell'avviso pubblico con cui realizziamo questo progetto appunto sarà transizione abitativa. Nel frattempo ci sono ricerche che continuano a fare sempre il tema casa, che aumentano ancora gli affitti. Voi avete fatto alcuni primi interventi sugli affitti brevi, ci sono critiche agli artigiani, chiedete una legge, cioè gli altri rami di attività, dicevo, intanto come procedono, quali sono le prossime azioni? Ma se guardiamo, diciamo, è passato solo un anno da quando le linee di indirizzo del piano per abitare sono state votate in consiglio e il nostro lavoro procede spedito su ogni strategia. È chiaro che stiamo rispondendo a decenni di disinvestimento strutturale sulla casa, però la strategia sfitto zero sta procedendo, così come la riqualificazione energetica delle case popolari ha visto già diverse migliaia di immobili sistemati su questo, quindi anche una risposta concreta a esigenze di povertà energetica. Abbiamo bandito il concorso per il Lazzaretto, in questi giorni vedremo diciamo l'aggiudicazione del progetto vincitore. Lì ci sarà un grande comparto di edilizia sociale, uno studentato pubblico che realizzeremo come Comune di Bologna con nostre risorse. Stiamo lavorando alla costituzione dell'agenzia per l'affitto, che nei prossimi mesi vedrà il voto in consiglio. Nel frattempo la stiamo dotando di patrimonio abitativo comunale e di ASP, in modo da avere già uno stock abitativo per quando parte di risposta alle esigenze, così come risorse per quello che i proprietari privati ci raccontano come loro maggior timore da affittare, cioè appunto la preoccupazione di morosità incolpevole. Quindi noi avremo un fondo di garanzia di 12 mensilità proprio per rispondere a quel timore e rimettere in circolo quindi anche appartamenti privati che transiteranno sulla nostra agenzia. Sugli affitti brevi pensiamo che questo diciamo momento regionale sia un momento particolarmente caldo. La legge regionale sul tema del 2004, diciamo precedente all'avvento delle piattaforme turistiche, quindi questo è un piano di lavoro che ci interessa, così come continuiamo con insieme ad altre città a sostenere la necessità di una legge nazionale sul tema, proprio per dare ai comuni la possibilità di distinguere tra chi integra il proprio reddito affittando una stanza o un appartamento, quindi in qualche modo fa quello per cui erano davvero pensate le piattaforme, una condivisione di un appartamento in modo non professionale, e chi invece ha decine e decine di appartamenti su una piattaforma che non sarebbe pensata per questo uso professionale li sottrae alla locazione all'interno.